Agosto, tecniche di sopravvivenza di Morena Rossi. Fra tutte le epidemie, i sismi, i tifoni, gli sbarchi di cavallette, le iracondie delle acque, le scarmigliate incursioni delle comete, ciabattanti comari dei cieli, fra tutti i deliqui del pianeta, le epilessie della clorofilla, le depressioni delle catene montane, solo certo e prevedibile resta il Ferragosto. Tanto prevedibile che il profeta dell'Apocalisse, intento a cogliere i ritmati zoccoli dei cavalli finali, nemmeno ne parlò, se non forse con i suoi amici osti, bancari e professori. Sebbene sia ormai allenato da tanti mai ferragosti, ogni anno questa bizzarra festa mi sopraggiunge, mi coglie e oltrepassa, come un trauma. Buongiorno, come avrete capito oggi si parla di Ferragosto. Era Giorgio Manganelli in uno dei suoi strepitosi articoli raccolti in improvvisi per Macchina da scrivere. Eh sì, questa bizzarra festa sta per arrivare anche quest'anno, con tutte le aspettative e le catastrofi che si porta appresso. E noi, di Agosto, tecniche di sopravvivenza, non potevamo non dedicare una puntata intera al Ferragosto. Ferragosto è la festa del nulla, come prosegue poi Manganelli nel suo articolo. E oggi è venerdì 13, quindi è proprio prossima questa festa e sarà domenica. E dobbiamo capire che cosa succederà domenica, se siamo pronti a questo nulla che ci avvolgerà anche se non daremo il consenso a nessuno. La tradizione, che è assolutamente tutta italiana perché non ci facciamo mai mancare nulla, vuole che questo Ferragosto sia la festa delle gite, la festa del picnic, la festa dei pranzi al sacco, del barbecue all'aperto. E vabbè, a giudicare dal tempo forse non so se sarà possibile farlo quest'anno, però di solito, anche causa la calura estiva che c'è di solito nel Ferragosto, è anche la tradizione dei bagni al mare, al lago, al fiume. Per i meno fortunati anche i bagni con i gavettoni. Non so se vi ricordate i gavettoni, sì, perché Ferragosto è anche il giorno dei gavettoni. Quindi raccontateci le vostre storie al 349-238-6666 o telefonateci all'800 24 00 24. Cosa state preparando? Che cosa avete deciso di fare domenica? Cosa avete intenzione di attuare per sopravvivere a questa giornata che è appunto il Ferragosto? Abbiamo anche un indirizzo email al quale potete scriverci, che è agosto@radio24.it. La parola d'ordine appunto di Ferragosto è gita. Gita, emigrazione in massa verso luoghi non ben identificati in cui appunto magari stendere i nostri plaid e fare i fantastici picnic. Ma più o meno in santa pace, voglio dire, perché poi tutti hanno la stessa idea, chissà come mai, di andare tutti nello stesso posto. E chi ha organizzato di farne uno forse si è già trovato in queste situazioni. Avete esaurito tutte le combinazioni tra formaggio, carne e verdura per le torte salate da portare al picnic. Il tavolo della vostra cucina è ricoperto di carta stagnola, pellicola trasparente e tupperware aperti in attesa di essere riempiti e forse non saranno sufficienti. Avete cucito insieme 7 plaid, ma probabilmente non basteranno per fare da supporto a vivande e persone sul prato. Sveglia alle 5 del mattino per friggere i 6 kg di melanzane che vi servono per preparare la vostra mitica pasta alla Norma. Norma, non sei normale. Dovete chiedere in prestito anche quest'anno la station wagon di vostro padre. Nel baule della vostra auto non ci stanno tutte le leccornie che avete preparato. 800 24 00 24 per raccontarci dove andrete questo Ferragosto, che cosa avete preparato, se appunto vi siete riconosciuti in una di queste situazioni che abbiamo appena sentito. Quindi avete anche voi cucinato tutto quello che si poteva cucinare per fare il vostro picnic? Scriveteci al 349 238 6666. Quali sono le vostre mete di questo Ferragosto, anche se, come ormai ci dicono tutti i meteo, probabilmente non sarà una bella giornata. Quindi che cosa avete deciso di fare? fare, come pensate di consumare la quantità di cibo che magari avete preparato, perché diciamolo, alla fine non si riesce mai a consumare tutto il cibo che si prepara, no? Si parte con amici, parenti, tutte le persone che si possono recuperare per fare queste scampagnate, queste gite fuori porta, ma è difficile poi consumare, riuscire a mangiare tutto quello che ci si è portati. Quindi tutti lì pronti probabilmente a fare il picnic, ma raccontateci dove state andando e come vi state organizzando. I più audaci probabilmente esibiranno anche, perché poi ci sono quelli che si mettono in libertà, no? Il picnic sul prato, il plaid, tutti liberi. Qualcuno magari esibirà anche delle abbronzature che magari ha fatto a luglio o, non so, delle nudità, così magari nei picnic, i più audaci ovviamente. E picnic è un termine di derivazione francese, quindi non lo so se questo è una cosa che ci può servire ai francesi quando si parla di cibo, magari ci vengono in soccorso, ma al di là dell'etimologia della parola, cerchiamo di entrare un po' più dentro la difficoltà del preparare il picnic e quindi dell'andare magari alla ricerca del prato perfetto. Il primo a partire era mio cugino Rino, che col motorino, lui era fresco di studi da geometra, partiva con la fettuccia da cantiere a andare a prendere un appezzamento di terra utile per noi. Prendeva 2-3 ettari di terreno, lo recintava con la rete elettrosaldata, poi attaccava la corrente col generatore, l'alta tensione, così chi voleva scavalcare per mangiare a scrocco moriva. Chiaramente una volta recintato dava il segnale, noi con le macchine arrivavamo a piripori, si apriva un barco in questo spazio e noi entravamo, ci mettevamo a cerchio, no? Come una sorta di raduno, ci mettevamo a cerchio come i nordisti, come se ci dovessero attaccare gli indiani da un momento all'altro. Era Brignano che faceva la descrizione delle sue emigrazioni verso i prati per fare il barbecue o per fare il picnic. Ma voi avete già adocchiato i vostri ettari di terreno che volete occupare con le vostre vettovaglie? Ma anzi, se ce ne sono di interessanti e volete condividerli con noi, scriveteci al 349 238 6666 o chiamateci in diretta all'800 24 0024. Ma per esempio, se domenica al ritorno dalla vostra gita fuori porta, dal vostro picnic, scoprite che invece ci sono un sacco di avanzi, quindi le cose che avete preparato non siete riuscite ad ingurgitarle tutte in quell'unico giorno, e se avete un modo creativo per recuperare gli avanzi, perché ce ne sono, c'è anche un concorso che può essere interessante, che può tornarvi utile. È promosso da Cavolfiori a Merenda. Cavolfiori a Merenda è un'associazione culturale di gastronomia itinerante che si occupa appunto di organizzare degli eventi e di riscoprire il cibo in un modo, il concetto di cibo in un modo più consapevole. E ha lanciato questo concorso che si chiama Ricreazione. Ecco, Ricreazione già è un bel nome per un concorso di questo genere. È un concorso di idee. Loro cercano delle idee, dei trucchi, delle astuzie, quindi delle tecniche di sopravvivenza, appunto, per non buttare via niente. Perciò, se avete delle idee innovative sul riutilizzo degli avanzi, del cibo che vi è avanzato con delle ricette particolari, ma addirittura se avete delle idee sul riutilizzo degli oggetti che non usate più e quindi una seconda vita degli oggetti, loro chiedono a voi del materiale, quindi spedite i vostri racconti, dei video, dei disegni, delle foto, lo mandate a comunicazione@cavolfioriamerenda.it, cavolfioriamerenda tutto attaccato, entro il 1° di settembre. All'ideatore più creativo ci saranno due posti, per l'ideatore più creativo ci saranno due posti per uno dei loro eventi, quello che si terrà il 18 e il 19 settembre presso l'azienda vitivinicola Iuli a Montalto di Cerrina, in provincia di Alessandria. Loro sono degli specialisti in picnic. Cavolfiori a Merenda organizzano appunto questi eventi o questi pranzi all'aperto, e quindi se vi interessa qualcuno a cui chiedere dei consigli su come realizzare il picnic perfetto, potete dare uno sguardo al loro sito o contattarli www.cavolfioriamerenda.it. Fra l'altro sul sito c'è una frase che mi è piaciuta moltissimo e dice: ovviamente per i piccoli sono previsti piccoli prezzi, gratis fino a 5 anni, meno 50% fino a 12, ma non chiedeteci le patatine fritte. Mm-hmm. 10 e 16 di venerdì 13 agosto. Oggi ad Agosto Tecniche di Sopravvivenza si sta parlando del Ferragosto, di come vi organizzate per domenica. Questa festa, festa bizzarra, festa per qualcuno inutile, per qualcuno una calamità, per qualcuno invece una festa molto attesa. Raccontateci il vostro Ferragosto, magari quello che avete in previsione di fare domenica o quello che avete fatto anni fa. Al 349 238 6666. O chiamateci in diretta per dirci cosa avete preparato, dove state andando, che cosa avete intenzione di fare all'800 24 00 24. Io, per esempio, nei miei ricordi alla voce Ferragosto ho il segnale di pericolo. È un file che apro davvero con difficoltà perché sono cresciuta in una famiglia di ristoratori sul lago di Garda, quindi potete immaginare il numero di persone che prenotavano per venire a pranzo il giorno di Ferragosto. Ma poi sempre queste tavolate infinite, gente con veramente portavano la nonna, la zia, la cugina, tutto quello che potevano portare. Tavole imbandite, incredibile. E la cosa assurda era che a Ferragosto, poi vabbè, è tradizione italiana, ci si fermava seduti a tavola fino alle 4 e 5 del pomeriggio, cose incredibili perché poi deve gestire il ristorante e prepararlo per la sera. C'erano queste persone che, non so, caffè, ammazza caffè, poi si mettevano a giocare a carte, si mettevano a cantare, quindi delle feste incredibili. Il Ferragosto per me è davvero una calamità. E poi c'era la grigliata, sì, il piatto forte era la grigliata. Io mi ricordo, mio padre se lo ricorderà molto meglio di me in realtà, perché era cotto anche lui a forza di girare spiedini sulla griglia e bracciole e costine. Quindi un sacco di carne al fuoco in realtà per Ferragosto, e è la stessa che metterete voi che vi state preparando per il vostro barbecue. Caverai, mio zio Domenico alle 7 partiva, dove vai? Accende la motosega, vado a fare un po' di legna, abbatteva un po' di macchia mediterranea, qualche quercia secolare e faceva il fuoco. Alle 7:30 la brace era già pronta. Diceva, Domenico, ammazza, alle 7:30 ha già fatta la brace. Beh, se qualcuno si può fare una bruschetta con l'aglio. E certo, chi è che fa colazione alle 7:30 con una bella bruschetta con l'aglio? È naturale. Era sempre Brignano. E voi avete fatto la legna? Avete abbattuto la vostra parte di macchia mediterranea? Sì, perché il barbecue, comunque la grigliata per non usare la terminologia anglosassone, è il must del Ferragosto. Ma per capire come se ne prepara uno coi fiocchi, abbiamo con noi oggi il vincitore del campionato mondiale di barbecue che si è tenuto il 5 agosto a Caorle, Stefano Bolzonella. Stefano? Ciao Morena. Ciao Stefano. Ciao. Allora, raccontaci innanzitutto come è stato il trionfo, cos'è successo, come ti sei distinto rispetto agli altri. Beh, diciamo, è stata una festa meravigliosa, assolutamente, e anzitutto, se mi permetti, vorrei cogliere l'occasione per complimentarmi anche con gli organizzatori, la società Idee Europee, i componenti della regione, la giuria, perché penso che mai come quest'anno l'organizzazione della manifestazione sia stata particolarmente impegnativa. È stata una gara, diciamo, all'ultima spada, nel senso che c'erano 130 partecipanti, siamo riusciti a emergere con la nostra costata, che è piaciuta moltissimo alla giuria, e questo ci ha fatto veramente piacere. Fantastico, una costata quindi? Abbiamo cucinato, sì, una costata fornita dagli organizzatori, ho abbinato alla costata del foie gras, del tartufo nero di Norcia. Ah. L'ho bagnato con un po' di miele, una spuntina di mele, e innaffiato con del moscato, il tutto accompagnato con del Brunello di Montalcino. Caspita, che meraviglia! Senti, ma hai qualche tecnica di sopravvivenza da dare a chi ci sta ascoltando, perché magari, non so, sta andando a fare la spesa e vuole comprare il pezzo di carne giusta? Cioè, come si fa il barbecue perfetto? Beh, allora, il barbecue perfetto, ognuno ci mette del proprio. Secondo me, prima di tutto bisogna vivere la festa e vivere il barbecue nel migliore dei modi, con l'entusiasmo, il divertimento e la goliardia. La parola d'ordine proprio del barbecue, secondo me, è divertirsi. Certo. Divertirsi con gli amici, avere della buona carne, avere del buon vino, sempre ovviamente moderatamente, con la testa sulle spalle, ma comunque. Ma sì, ma a Ferragosto si può fare. Sì, assolutamente, sì. Assolutamente. Poi dopo, per il taglio di carne dipende da cosa uno piace, possono esserci il maiale, può esserci il vitello, qualsiasi tipo di carne. Noi ad esempio quando ci troviamo a fare le grigliate, andiamo con le costicine e le salsicce classiche e poi tutte le verdure grigliate. Ma forniamo a iosa. È una cosa che mi ha sempre molto, molto incuriosito. Come si fa a mantenere viva la fiamma? Cioè, perché il vero campione di barbecue è anche capace di tenere le braccia belle accese, no? Ma diciamo che dipende anche dal tipo di legna. Allora, è dal tipo di carne che si cucina. Bisogna usare tendenzialmente legna di vigna, perché quella legna che nel momento in cui diventa brace mantiene il calore più a lungo e lo ripropone in maniera molto omogenea e lenta. Altri tipi di legna invece ti fanno la fiammata, ti danno il calore tutto quanto subito, però poi si raffreddano e la carne tende a bruciarsi all'inizio e non avere quella cottura omogenea continua. Uh-huh. Per cui partire dalla legna innanzitutto e poi bagnare la griglia con dell'olio prima di appoggiare la carne, in modo tale che anche questo faccia passare l'aroma, un buon olio extravergine, faccia passare l'aroma nella carne e poi dipende dal tipo di carne il tempo di cottura. Mediamente una costata da 8 etti, 7-8 etti, cucinarla 5 minuti per parte, 5 da una parte, 5 dall'altra, senza condimento, senza assolutamente nulla, toglierla dal fuoco, un po' di sale grosso, un po' di olio e servirla. Fantastico. E tu domenica dove sarai? Farai una grigliata o ti prendi un po' di vacanza? Allora, domenica dovremmo essere 40 persone, perché visto il risultato della manifestazione stanno arrivando telefonate degli amici che dicono: ah, ma allora, visto che avete vinto, ci autoinvitiamo ad una bella grigliata per domenica. Beh, Stefano, a questo punto mi autoinvito anch'io. Fammi sapere dove e ci troveremo tutti lì a questo punto. Assolutamente, guarda, più che volentieri. Grazie mille, Stefano. Di niente, è stato un piacere. Buon Ferragosto, ciao. Grazie altrettanto a voi. Ciao. Beh, il campione del mondo di barbecue ci ha dato delle dritte buone, direi, no? Io, per esempio, che ne so nulla, infatti litigo sempre con il mio fidanzato su bisogna salarla prima la carne, bisogna metterla dopo, girarla due volte, cioè è sempre un disastro perché io non so nulla. Insomma, ci dice che la legna di vigna è quella migliore, sembra una buona dritta. Ma raccontateci anche le vostre dritte, quello che state facendo o, non so, i vostri segreti sul barbecue al 349-238-6666 oppure chiamandoci in diretta all'800-24-0024. Ma prima abbiamo parlato del picnic che ha derivazione francese probabilmente, ma anche barbecue probabilmente ha una derivazione francese e sembra che derivi dall'espressione dalla barbe à la queue, non so nemmeno come si dica, però cuocere un animale tutto intero infilzandolo allo spiedo dalla barba alla coda, cioè dalla testa ai piedi. Ma francesi a parte, Ferragosto per molti è una calamità. Ma per me lo è stato, infatti, come vi raccontavo. Ma vediamo che cosa significa Ferragosto per una coppia come Maria De Biase e Corrado Nuzzo. Ciao Maria e ciao Corrado. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora com'è questo Ferragosto? Cosa succede? Cosa può succedere in una coppia, per esempio, rodata come voi? Ma può succedere di tutto, eh? Abbiamo passato veramente diversi Ferragosti infernali. Però quest'anno andiamo a San Vincent, abbiamo una serata in piazza, quindi lavoriamo. Ah, bene. Meno male perché Maria è sempre un po' contrariata quando decido di fare le partenze per festeggiare appunto il Ferragosto come milioni e milioni di italiani. Ma perché lui non è che il Ferragosto lo vuole passare vicino casa, no. Lui decide, tipo l'anno scorso voleva andare in Salento, quindi siamo partiti e siamo rimasti completamente in macchina. Il traffico. Siamo rimasti imbottigliati, l'abbiamo fatto a Viserbella, ma non è andata male, insomma. No, è andata fatta proprio bene. No, Corrado non è il concetto di partenza intelligente, proprio. Come? Gli manca. Ma stai scherzando? Cioè, ma gli manca, gli manca il concetto di partenza sì, o di intelligente? No, tutte e due. No, a parte che bisogna dirlo, per come siamo messi come coppia, la partenza intelligente a questo punto sarebbe farla in due luoghi separati, cioè fare il Ferragosto, proprio uno in montagna e uno al mare. bastardo. Però lo voglio dire, quest'anno ho organizzato una cosa bellissima, Morena, per Maria. Ma dai. Che però me l'ha snobbata. No, perché? No, lo voglio dire, anche ai radioascoltatori, quindi non preparate dei ferragosti per le vostre mogli o le vostre ragazze, perché poi alla fine le snobbano. Io quest'anno volevo portare Maria in Africa fra i beduini, tra le dune, in modo che potessimo ritrovare il nostro amore. Sì, ma lo sai che mi hanno detto che quando una coppia arriva in Africa, i beduini circondano il marito e gli chiedono sempre se vuole scambiare la moglie con un cammello. Non è cosa, dai, Morena. No, ma sì. Ci pensi? Ma no, ma anche perché ci sareste andati in giornata? Cioè il Ferragosto in sì, Africa? Sì, si fa sempre queste cose andate e ritorno. Bellissimo. Comunque la storia di scambiare la moglie con il cammello non è male, eh? Ci penso, ma non so dove metterlo, poi anche non te lo fanno caricare. Comunque Nuzzo è maschilista, Morena, devi saperlo. Oh no, perché? No, è proprio maschilista. Io sono maschilista. Ma pensa a te, ma pensa alle musulmane, che umiliazione, Maria, quando girano col marito devono portare il velo. E io allora che gli devo camminare accanto a volto scoperto? Non è umiliazione questa? Forse sì. Ma no, ma... Come puoi sentire siamo in crisi, c'è grande crisi di coppia. La crisi del Ferragosto proprio. Certo. Però di Ferragosti belli ne abbiamo fatti, adesso a Morena... Sì, è vero, uno bello è stato a Caracas. Ma se mi hanno sequestrato a Caracas. Appunto. Oh, che sfiga, l'unico ostaggio restituito senza chiedere riscatto. Morena, sono sfigata. Ma che brutte cose. No, dai, di qualche Ferragosto bello, perché l'abbiamo... Sì, qua. No, un altro bello a Ischia. No, a Ischia è vero, a Ischia è stato bello, dai, devo dirlo. Morena, stavo annegando. Vuoi mettere? Sono quelli i momenti che ogni moglie proprio sogna. No, momenti indimenticabili. Momenti indimenticabili. Incoraggiamo i radioascoltatori e raccontiamo un Ferragosto che può essere interessante per tutti. Quale? Un esempio d'amore. Uno qualunque. Non so. Ma secondo me siamo stati bene anche a Cortina. Maria, io a Cortina non c'ero. Come non c'eri? No. E con chi sono andato? Allora, pensa però a Rimini. A Rimini c'eri? No, a Cortina non c'era. No, aspetta. Ma tu c'eri a Rimini. Non puoi fare... Pensa a Rimini. Stanno uscendo gli altarini della nostra coppia. No. Comunque no, siamo un po' in crisi. Perché prima ti ricordi, caro? Ti ricordi, Corrado? Facevamo l'amore sotto la neve, sotto la grandine, sotto la pioggia, e ora... Vabbè, è colpa mia se l'Italia sta diventando un paese tropicale. Sì. Arrampicati sui specchi, arrampicati. Dove state andando adesso? Dove vi ho beccati? Adesso stiamo andando a Loano. A Loano. Abbiamo una serata con gli altri di Zelig al Parco dei Principi. Ecco, allora non litigate, magari. Salutiamoci così e cerchiamo di non litigare. Solo che lui non prenda i difetti della sua famiglia. Oh no. Almeno quello. Oddio. Ti riferisci al fatto che sono permalosi? No, che sono longevi. Oh, non muore nessuno in quella famiglia. È terribile. Ragazzi, grazie, buon Ferragosto e mi raccomando, arrivateci a Ferragosto però, perché oggi sono il 13. Infatti, secondo me io la vedo male. Grazie, buon viaggio. Un bacio a tutti. Ciao, un bacio, grazie. Ciao. A voi. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 800 24 00 24 per raccontarci del vostro Ferragosto, di come vi state preparando, oppure i vostri messaggi al 349 238 6666. Abbiamo sentito prima Corrado e Maria, che sono i due comici dello Zelig, che ci dicevano stavano partendo per andare a fare questa serata. Insomma, loro stanno litigando. E voi che cosa state facendo? Che cosa vi comporta Ferragosto? Vi crea dei problemi? Non so, le coppie di solito quando ci sono questi momenti così magari anche un po' stressanti di preparazioni, di organizzazione, litigano. Noi la prossima settimana avremo una puntata interamente dedicata alla coppia che scoppia in estate, quindi che litiga proprio perché in prossimità dell'estate, insomma, vengono fuori magari delle cose, come nel caso prima di Corrado e Maria, degli altarini, si scoprono delle cose che magari non si sapevano. Insomma, la prossima settimana una puntata interamente dedicata a questo, ma oggi stiamo parlando di Ferragosto, cioè di quello che farete domenica. Questa festa incredibile, questa festa calamità, questa festa che è un po' come se fosse Capodanno, ci si deve organizzare, si va alle gite fuori porta, si va a fare le scampagnate, si va a mangiare dagli amici. Infatti è arrivato anche un messaggio in cui si dice mia moglie, oh, non lo trovo più. Comunque diceva che la moglie compie gli anni proprio il giorno di Ferragosto e le tocca, eccola qua, a Ferragosto mia moglie compie gli anni e ogni anno è sconfortata, al massimo perché bisogna organizzare il pranzo con tutti. Questa volta ce ne andiamo via lontano. E voi che cosa state facendo per il vostro Ferragosto? Come vi state organizzando? 349-238-6666 o per chiamarci 800-24-00-24. Noi stiamo cercando di darvi delle dritte per arrivare sani e salvi e per sopravvivere alla festa di domenica sera. Ma vediamo che cosa è successo nella storia proprio il giorno di Ferragosto. 15 agosto 1959. Da un paio di giorni la Volvo monta la prima cintura di sicurezza. Partenza per la gita fuori porta in piena sicurezza. 15 agosto 1877. Thomas Edison effettua la prima registrazione sonora con la filastrocca Mary Had a Little Lamb. Mary aveva un agnellino. Forse parlava dei preparativi per il barbecue. Speriamo di no. 15 agosto 1096. Inizia ufficialmente la prima crociata. Esodo di massa ante litteram. Peccato che non fosse per un picnic. 'Agosto, tecniche di sopravvivenza, si parla del Ferragosto, di come vi state preparando al Ferragosto. Arrivano i vostri messaggi al 349-238-6666. Un modo per sopravvivere? Il lavoro. Domenica 15 mi hanno richiamato al lavoro e il problema è risolto. Laura. Oppure un altro. Ciao, a Ferragosto turno in Croce Rossa. Ecco, c'è chi lavora ma c'è anche chi va a fare questi pranzi, a fare le gite, i picnic, i barbecue. E noi vogliamo parlare con Nadir. Nadir da Vicenza. Nadir? Sì, buongiorno. Eccoci qua. Ciao Nadir. E tu? Ciao. Come ti stai preparando? Io il 15 agosto partirò verso Valencia in autostop. Ma come? Proprio il 15? Sì, è un'avventura. Ma fantastico. Non è solo le ferie e il viaggio, ma il viaggio è tutto, il percorso è tutto un'incognita. Ma caspita, quindi Vicenza, Valencia, tutto in... cioè, in autostop. In autostop, ma è fantastico. Ma ti porti il pranzo al sacco? Cioè come fai? No, ho il fornello, ho le pentole, mi porterò il mangiare, l'olio pugliese, l'origano di Pantelleria... Sarò preparato per tutto. Ma Nadir, sei fantastico. Senti, ma le persone che fanno l'autostop, perché sembra un po' una cosa che ricordo anni fa, ma si può ancora fare l'autostop? Cioè non lo fai in autostrada, ovviamente, che non si può. Difficilmente. In Italia, soprattutto, ci sono pochi passaggi. Già. Mentre all'estero, già in Francia o Spagna, è una pratica più comune. Certo, ma tu è la prima volta che fai una cosa di questo genere? No, l'anno scorso sono andato in Svizzera, a Locarno, al Festival del Cinema. Ah, quindi ti sei fatto Vicenza-Locarno in autostop l'anno scorso? Sì. E sempre il giorno di Ferragosto? Più o meno, sì. Sono partito due giorni prima, il 14 compio gli anni, quindi ogni anno... Auguri! Grazie. Organizzo un viaggio. Fantastico. Senti, ma quando è che tornerai poi? Cioè, tu parti il 15, ma hai una data precisa per tornare e torni sempre in autostop, soprattutto? No, tornerò in macchina il 2 di settembre. Il 2 di settembre? Sì. Perfetto. Allora, facciamo così che ti chiamiamo, Perché noi saremo ancora in onda, ti chiamiamo il 2 di settembre, perfetto. Vogliamo sapere, o il 3 anzi, che è l'ultimo giorno di trasmissione, magari ti chiamiamo e ci racconti com'è andata questa esperienza. Magari riesco a trovare qualche passaggio, grazie a voi. Ma speriamo, ecco, esatto, allora, Nadir da Vicenza, se vedete Nadir con uno zaino, immagino, quindi, sì, giusto? Sì, molto grosso. Molto grosso, descriviti dai, che così magari così se allora, ti vedono per strada. Allora, zaino scuro da montagna, quelli da trekking, con tenda, sacco a pelo, è più grande di me quasi. Lo zainone per partire. E partirai proprio da Vicenza città? No, partirò da Mortisa, che è un piccolo paese quasi l'altopiano di Asiago. Bene, allora se ma si parte... Ma già molti amici che vogliono portarmi fino a Vicenza, beh. Il problema è dopo. Quindi dopo Vicenza, se vedete, sei alto, come sei? Sono 1,75 con i capelli rossi, quindi è facile. Benissimo, ecco, anziché portare la rosa rossa per farsi riconoscere, capelli rossi, perfetto. Quindi se vediamo capelli rossi, zaino molto grande, non so, hai barba, altre cose? Ho un po' di barba, sempre rossa. Bene. E avrò sempre i fogli... con le città che vorrò raggiungere. Bene, allora speriamo che ti serva davvero trovare un passaggio. Ciao Nadir. Grazie, arrivederci. Ciao, buona vacanza. Stiamo parlando del Ferragosto. Ferragosto, quindi, di come vi state organizzando. Nadir partirà per questa avventura incredibile in autostop. Ma voi siete già al mare, siete in montagna, siete con gli amici. Domenica, fra l'altro, è brutto tempo, come si diceva. Quindi pioverà sulle vostre griglie roventi, oltre che sulle tamerici salmastre d'Arse. Mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare. È colpa del mare, del cielo e del mare. Lasciandomi andare, questo sole che cosa può fare? Io non ci credevo, ma posso sognare. Forse solo. Come avrete capito dalla canzoncina, ci stiamo trasferendo al mare e per l'esattezza su una nave. La nave è la nave Costa Mediterranea di Costa Crociere, perché in barba alle gite fuori porta, ai barbecue, alle scampagnate, fra l'altro sotto l'acqua, c'è chi il Ferragosto lo passerà sull'acqua, in mezzo al mare, e ne parliamo con il comandante Massimo Garbarino. Comandante, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma dove si trova lei in questo momento? Noi in questo momento siamo a Savona e stiamo completando lo sbarco di 2600 ospiti che hanno appena terminato una crociera in Egitto e Israele. Fra un paio d'ore inizieremo l'imbarco per gli altri 2600 ospiti che partiranno per una crociera al Marocco, Spagna, Marocco e Canaria. Però 2600 passeggeri, ospiti. Io vengo da un paese che ha 2600 persone più o meno e mettere d'accordo tutti non credo sia possibile. Come fa lei? Cosa succede in mare quando ci sono 2600 ospiti da tenere a bada, per esempio a Ferragosto? Ma guardi, noi innanzitutto c'è da dire che Costa Crociere fa crociere da più di 60 anni. Quindi abbiamo acquisito una certa esperienza e noi altri abbiamo una certa dimestichezza. E personalmente dopo 14 anni di comando delle navi grosse, riusciamo a gestire tutti quanti e farli sbarcare belli contenti, soddisfatti, con la voglia di tornare a bordo. Giusto, ma Ferragosto per voi per esempio che cosa significa? Si organizzano delle cose particolari? Cioè, non so, ci si trova tutti in un certo posto e si fa qualcosa tutti insieme o è semplicemente un giorno come un altro? Ma guardi, il Ferragosto sulla nave uno conta i giorni della crociera, non vede proprio le date, una come l'altra. È la ricerca del divertimento, la ricerca dello svago, la visita di un porto, di una destinazione per cercare di trarre quanto più possibile dalla vacanza, divertirsi in tutti i modi, che sia famiglia o che sia uno da solo. Certo, ma lei ha qualche aneddoto da raccontarci, qualcosa che è successo, non so, qualcosa di un po' piccante magari, non so, nei 14 anni sulle navi? 14 anni di comando ne sono successe di tutti i colori. Ecco. Gente che si perde. Ah. Gente che si perde, che dopo 11-12 giorni ancora non riesce a trovare la cabina. Ma io li consolo dicendo, guarda, è un modo come un altro per conoscere la nave. Giustissimo. È quello lì. Poi alla fine il divertimento è tanto e più che altro importante per noi è la soddisfazione dell'ospite e tutti quanti ritornano a bordo perché veramente in realtà si sono divertiti tanto. Certo, ma visto che siamo ad agosto, tecniche di sopravvivenza, lei ha una tecnica di sopravvivenza in qualità di comandante? Ma guardi, le dico, il comandante lo riconoscono tutti. Uh-huh. E qualche volta scendo nei porti e le devo dire in tutta sacrosanta sincerità che dovrei farmi truccare da un truccatore di teatro d'opera per riuscire a non farmi riconoscere anche nei momenti in cui cerco un pochettino di privacy e vado a comprarmi qualche cosa o a fare due passi, perché nonostante tutto poi anche con i miei capelli bianchi sono riconoscibilissimi. Si deve mettere l'impermeabile e gli occhiali neri. E come si fa? No, hai ragione. Bene, allora noi la lasciamo ai preparativi quindi per la prossima crociera e a Ferragosto ci pensi, perché le tecniche di sopravvivenza che daremo oggi saranno quelle per sopravvivere ad agosto, che lei sia in mezzo al mare, insomma, in città. Qualcosa potrà servire anche per lei probabilmente. Certo, e non è detto che non ne trovi qualcheduna, giusto? Una sera che verrà. Grazie. Prego, e un augurio, un saluto a tutti quanti. Buon viaggio. Grazie. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 10:47, oggi stiamo parlando di Ferragosto. Ferragosto e quindi come sopravvivere a questa festa. Dove state andando, come vi state organizzando? Ma soprattutto, siete sicuri di voler andare alla festicciola, al picnic, al barbecue cui vi hanno invitato? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo, in controluce. Voi mi fate, Michele, vieni di là con noi, dai. Io, andate, vi raggiungo dopo. Vengo. Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo. No. Non c'è un modo diverso di dire non vengo, basterebbe dire non ho voglia, forse è la risposta più giusta. Ma voi pensateci bene se avete voglia di andare. Ma ecco le nostre tecniche di sopravvivenza. Uno. Se nella gita fuori porta il numero di bambini supera quello degli adulti, fingete un mal di testa e rimanete a casa. 2. Portate con voi il cubo di Rubik. Se si mette male, potete sempre ritirarvi in solitaria dicendo che volete finirlo entro sera. 3. Se vi vogliono offrire un passaggio per andare al picnic, rifiutate e dite che arrivate con la vostra auto. Potete sempre fingere un guasto all'ultimo minuto. 4. Non cancellate subito il numero di chi vi manda il messaggio di buon Ferragosto. 5. Toglietevi almeno la soddisfazione di rispondere per le rime e poi cancellatelo. Aspetto il sasso e chi così mi spegnerà. Con il sorriso sulla fronte, tra le pozzanghere profonde, rimango al largo nell'acquario della mia fantasia. Agosto, tecniche di sopravvivenza, si parla di Ferragosto. E quindi quali sono le vostre tecniche di sopravvivenza, le vostre astuzie per non rimanere schiacciati da questa festa assurda? I vostri messaggi arrivano al 349-238-6666 e c'è questo che dice: domenica mattina partenza con pranzo al sacco. Io, la mia ragazza e i nostri fantastici Lady D e Geronimo, che sono due cavalli maremmani già nei boschi comaschi, speriamo che il tempo tenga, altrimenti pranzo in stalla per star con loro. Oppure un altro, Roberto, un altro ascoltatore che scrive: il 15 agosto del 66 ho raggiunto Amsterdam in autostop ed ho dormito in piazza Dalm, sbigottito fra i figli dei fiori, indimenticabile. Questo perché prima abbiamo sentito Nadir che ha fatto il 15 di agosto, partirà da Vicenza e vuole arrivare a Valencia. Oppure c'è un'altra ascoltatrice che ci dice: Ferragosto, passerò il mio Ferragosto montando scaffali dell'IKEA, svolta di vita, mi trasferirò definitivamente a casa del mio compagno dopo qualche anno di indipendenza e cazzeggio. Speriamo. Beh, speriamo. Quindi Ferragosto pieno di programmi, di che cosa c'è da fare. E appunto, cosa c'è da fare a Ferragosto? Cosa facciamo questo fine settimana? Ne parliamo con Federico Taddia, che il giorno di Ferragosto, quindi domenica, sarà in onda con Mine Vaganti. Quindi tu niente ansia da prestazione su picnic o barbecue, Federico? Già organizzato il mio Ferragosto, facilissimo. Sono qua. Fantastico. In radio. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a te. E quindi che cosa ci consigli? Ma è difficile, è difficilissimo, perché sono mille le iniziative proposte in questi giorni. Sono andato però a cercarti due o tre chicche, secondo me niente male, già da oggi a domenica. E partirei proprio con questa sera. A Roccastrada, siamo in provincia di Grosseto, C'è una serata di buiometria. Buiometria. Ho visto il buio nel tuo volto in questo momento. sono cacciatori di buio, vanno a misurare il buio. Ma bellissimo! Perché stanno mappando l'Italia, è difficilissimo anche qui mappare l'Italia, cercare le zone più buie, quelle più buie del buio, e partono da Roccastrada e fanno una sorta di mappatura notturna con un rilevatore di buio, un misuratore di buio. Quindi contro l'inquinamento. Contro l'inquinamento luminoso. Ma fantastico. E sempre lì a Roccastrada, nel weekend, appunto a Ferragosto, c'è un torneo di pallaventura. Palla 21 è uno sport. Strani questi signori, eh? Eh sì, beh, grossetta, eh. Sono grossettani. In Maremma è questo sport mare in mano dove lo giocano veramente in 20 persone. Io sono andato a vedere una partita di Palla 21 e ho scoperto perché lo giocano solo loro. È impossibile capire le regole perché vale più o meno tutto. Sembra che esca quasi da un racconto di Stefano Benni questo sport. Molto divertente. Per tutte le informazioni, www.pbinco, scritto con la k.org. E se appunto volesse partecipare a questa serata di caccia al buio. Mentre un altro festival, niente male, siamo ad Atella in provincia di Potenza, dove c'è il festival dell'organetto. Anche questo è nulla di che. Tu dici quanti festival dell'organetto ci sono in Italia. La cosa divertente di questo festival è che veramente tutti possono partecipare, e già quest'anno ci sono iscritti sia un bambino di 5 anni, per dirti, sia un nonno di 80 anni. Perché tu arrivi col tuo organetto e ti danno 5 minuti a disposizione. In questi 5 minuti devi dare il meglio o il peggio, insomma, quelli puoi scegliere, no? Insomma, la scelta è tua, fai quindi quello che ti pare. Quindi te lo porti tu l'organetto, però devi essere organetto munito, okay. Quella è l'unica regola. Per le informazioni, www.assartea.it. E un'altra, mille sagre, ne ho trovato una che mi ha fatto molto ridere, che è la sagra del solco dritto. Siamo a Valentano, in provincia di Viterbo. E insomma, una festa religiosa, però il clou è riuscire a realizzare questo solco con un trattore lungo 3 km. E più è dritto, più è bella la festa, e più è bella la sagra. Non ho ben capito come funziona, ma mi faccio. Solco dritto. Sì, la sagra... E poi di questo solco cosa se ne faranno? Credo che lo verrà chiuso il 16 d'agosto. È quindi una cosa fantastica. Sì, molto, molto utile. Bene. È una festa proprio mordi e fuggi. Poi due segnalazioni invece. Queste serie, per chi fosse dalle parti del Forte di Fenestrelle, siamo quindi in Val di Susa, e in queste serate si sta tenendo lo spettacolo del Il peso della farfalla, tratto dal romanzo di Henry De Luca, ed è una primizia perché è una sorta di esordio di questo spettacolo, e lo consiglio perché l'ho visto, è molto molto bello. Fortedifenestrelle.com. Una cosa invece da spiaggia, finalmente a Cervia c'è il Master delle sculture di sabbia, e dove si può andare a vedere e non partecipare perché sono dei professionisti e non si possono neanche toccare, questo lo so che è richiesto dagli organizzatori. Però soprattutto con i più piccoli, con i bambini, viene poi voglia di cimentarsi, magari non lì a fianco con palette e secchiello, vengono anche date un po' di istruzioni, un po' di dritte, quindi credo sia bella. E non ho il sito, ma insomma siamo a Cervia, quindi mi perdoni, vero? Ma mi certo perdoni. Che ti perdono, okay. Un'ultima segnalazione invece legata alla puntata di Mine Vaganti di domenica. Allora, seguiremo due casse integrati che, visto che avevano 4 mesi di tempo, hanno deciso di fare l'intero arco alpino a piedi, e faranno organizzarsi Ferragosto, o comunque l'agosto. Faranno 15 agosto con noi, ci diranno dove sono, e poi avremo ospite l'inventore di Vivere con Lentezza, Bruno Contigiani, sai, questo nuovo spirito, forse lo conosci, e andremo in collegamento con un bar di Pavia, dove per questa giornata del Vivere con Lentezza al Ferragosto, bellissimo, io sono di Pavia, ecco, leggeranno libri a caso, cioè uno va lì, non sa cosa fare in questo bar, legge i libri, e noi ci entreremo in queste letture, aspettiamo lentamente che passi la domenica. Sì, è così. Grazie mille, quindi un weekend da Mine Vaganti, perfetto. Beh, siamo arrivati anche alla fine di questa seconda settimana d'agosto, e per chi sopravviverà al Ferragosto do appuntamento a lunedì. Radio 24 si trasferisce ad Ibiza, almeno per qualche minuto. Vi aspetto per le tecniche di sopravvivenza sotto l'ombrellone. Ringrazio in redazione Vittoria Mussini, Laura Faggin, e in regia Paolo Corleoni. Ciao, buon weekend, e mi rifiuto di dirvi buon Ferragosto. Fine della trasmissione. Ma io volevo soltanto... Fine della trasmissione.